Il duca, nel frattempo, non aveva smesso di guardare fissamente la moglie. «Orian, bisognerebbe almeno dire come stanno veramente le cose e non mangiarsene la metà. Bisogna dire», rettificò rivolgendosi a Swann, «che l'ambasciatrice d'Inghilterra di quel tempo, che era una bravissima donna, ma viveva un po' sulla luna e andava soggetta a questo genere di topiche, aveva avuto l'idea alquanto barocca di invitarci assieme al presidente e a sua moglie. Siamo rimasti, anche Orian, piuttosto sorpresi, tanto più che l'ambasciatrice conosceva abbastanza la gente del nostro giro per non doverci invitare a una riunione così bizzarra. C'era un ministro sospettato, a ragione, di furto. Insomma, lasciamo perdere. Non eravamo stati avvertiti, ci avevano intrappolati. E del resto, bisogna riconoscere che tutte quelle persone si sono comportate molto educatamente. Solo che così era già fin troppo. Madame de Guermantes, che non mi fa spesso l'onore di consultarmi, ha pensato bene d'andare in settimana a lasciare un biglietto da visita all'Elysée. Gilbert forse ha un po' esagerato, vedendoci una macchia sul nostro nome. Ma non bisogna dimenticare che, lasciando da parte la politica, Carnot, il quale del resto stava molto correttamente al suo posto, era nipote di un membro del tribunale rivoluzionario che in un solo giorno ha mandato a morte 11 dei nostri. E allora, Bazin, perché andavate a pranzo tutte le settimane a Chantilly? Forse che il duca d'Aumale non era anche lui nipote di un membro del tribunale rivoluzionario? Con la differenza che Carnot era un brav'uomo e Philippe Égalité un infame canaglia. Chiedo scusa se interrompo, ma è per dire che ve l'ho spedita la fotografia, s'intromise Swann. Non capisco come mai non ve l'abbiano recapitata. Non mi stupisce poi tanto, commentò la duchessa. I miei domestici mi dicono solo quello che ritengono opportuno. Probabilmente non amano l'ordine di San Giovanni. E suonò. Sapete bene, Orian, che quando andavo a pranzo a Chantilly lo facevo senza entusiasmo. Senza entusiasmo, ma con camicia da notte appresso, per il caso che il principe vi chiedesse di restare a dormire, cosa che, del resto, faceva raramente, da perfetto villano qual era, come tutti gli Orléans. Sapete con chi pranziamo stasera da Madame de Saint-Uveur? Chiese Madame de Guermantes al marito. A parte i commensali che già sapete, ci sarà, invitato dell'ultima ora, il fratello di re Teodosio. A tale nuova, i tratti della duchessa spirarono contentezza e le sue parole noia. «Ah, mio Dio, un altro principe!» «Ma questo è simpatico e intelligente», intervenne Swann. «Ma non del tutto», replicò la duchessa, dando l'impressione di scegliere bene le parole perché il suo pensiero apparisse più originale. «Avete mai notato che, fra i principi, anche più simpatici non lo sono mai fino in fondo? Ma sì, ve l'assicuro, devono sempre avere un'opinione su tutto e, siccome non ne hanno nessuna, passano la prima parte della vita a chiederci le nostre e la seconda a propinarcele come fossero loro». Devono dire a tutti i costi che questo è bene eseguito, che quest'altro è eseguito meno bene. Non c'è nessuna differenza. Ecco, per esempio, quel caro Teodosio Cadetto, non ricordo il suo nome, mi ha chiesto come si chiamasse un certo tema musicale e gli ho risposto, continuò la duchessa con gli occhi scintillanti e le belle, rosse labbra ridenti, si chiama tema musicale. Ebbene, in fondo non è rimasto soddisfatto. Ah, caro Charles, riprese con tono languido. Come può essere noioso pranzare fuori? Certe sere si preferirebbe morire. Anche se morire, forse, è altrettanto noioso, dato che non si sa bene cosa sia. Comparve un lacchè. Era il giovane fidanzato che aveva avuto da ridire col portinaio finché la duchessa, nella sua bontà, non era intervenuta, ristabilendo fra i due una pace apparente. «Devo andare a prendere notizie del signor Marchese d'Osmond stasera?» domandò al duca, Ma nemmeno per sogno, non prima di domattina. Anzi, non dovete neanche restare qui stasera. Il lacchè del marchese vi conosce. Potrebbe benissimo portarvi lui notizie e dirvi di venire a cercarci. Uscite e andate dove vi pare. Datevi ai bagordi, dormite fuori. Non voglio avervi fra i piedi prima di domattina. Una gioia immensa pervase il volto del lacchè. Avrebbe potuto, finalmente, passare lunghe ore con la fidanzata, che non riusciva quasi più a vedere da quando, a seguito di una nuova scenata col portinaio, la duchessa gli aveva gentilmente spiegato che era meglio non uscire per evitare ulteriori conflitti. Nuotava al pensiero d'avere finalmente la sua serata di libertà in una beatitudine che la duchessa non mancò di notare e decifrare. Provò come una stretta al cuore e un prurito in tutte le membra alla vista di quella felicità colta a sua insaputa, di nascosto da lei, di cui era irritata e gelosa. «No, Bazin, al contrario, che resti qui, che non si muova da casa». «Ma, Oriane, è assurdo! C'è tutta la vostra gente e a mezzanotte per il ballo avrete anche la sarta di scena e il costumista. Non può minimamente servirvi». E dal momento che lui solo è amico della che di mamma, preferisco mille volte che se ne stia alla larga. Ascoltate, Bazin, lasciate che decida io. Ho giusto qualcosa da fargli dire in serata, non so bene a che ora. Soprattutto, non muovetevi di qui un solo minuto, intimò alla che disperato. Se c'erano continui conflitti e non si resisteva molto in casa della duchessa, la persona a cui bisognava attribuire questo perenne stato di guerra era assolutamente inamovibile, ma non si trattava del portinaio. Certo, per il lavoro grosso, per le torture più faticose da infliggere, per i litigi che finiscono a botte, la duchessa gliene affidava i pesanti strumenti e lui, d'altronde, svolgeva il suo ruolo senza sospettare che glielo avessero assegnato. Anche lui, come i domestici, ammirava la bontà della duchessa e i poco chiaroveggenti lacchè che venivano spesso, dopo aver lasciato il posto, a far visita a Françoise, le assicuravano che la casa del duca sarebbe stata il miglior impiego di Parigi, se non fosse stato per la portineria. La duchessa si serviva della portineria come ci si è serviti per molto tempo del clericalismo, della massoneria, del pericolo ebreo, eccetera. Si fece avanti un altro lacchè. «Perché non mi è stato consegnato il pacco del signor Swan? Ma, a proposito, lo sapete, Charles, che mamma sta molto male? A proposito, è tornato, Jules? È lui, no, che è andato a prendere notizie del signor Marchese d'Osmond? E qui, signor Duca, ci si aspetta che il signor Marchese espiri da un momento all'altro». «Ah, è vivo!» esclamò il duca con un sospiro di sollievo. «Ci si aspetta! Che diamine! Finché c'è vita c'è speranza!» aggiunse rivolto a noi in tono gioioso. «E me lo davano già per morto e sotterrato! Oh, fra una settimana starà meglio di me!» «Sono i medici a dire che non passerà la sera. Uno di loro voleva tornare stanotte. Il suo capo gli ha detto che era inutile. Il signor Marchese dovrebbe essere già morto e sopravvissuto solo grazie a dei clisteri d'olio canforato». «Chiudete il becco, razza d'idiota!» gridò il duca al colmo dell'ira. «Chi vi ha chiesto qualcosa? Non avete capito un accidente di quello che vi hanno detto?» «Non a me, a Jules!» «Volete star zitto?» urlò il duca. Poi, girandosi verso Swan, «Che fortuna che sia vivo! Riprenderà le forze a poco, essere vivo dopo una simile crisi è già un'ottima cosa. Non si può pretendere tutto in una sola volta. Non deve essere sgradevole un piccolo clistere d'olio canforato», continuò fregandosi le mani. «È vivo, e cosa si vuole di più? Dopo aver passato quello che ha passato è già un prodigio, è addirittura da invidiare col temperamento che dimostra. Ah, i malati! Si hanno tanti piccoli riguardi per loro che per noi non avrebbe nessuno. Stamattina un diavolo di cuoco m'ha fatto un cosciotto alla salsa bernese, riuscito a meraviglia, lo ammetto, ma proprio per questo ne ho preso tanto che ce l'ho ancora sullo stomaco, eppure nessuno verrà a prendere mie notizie come per quel caro Amanien. Anzi, ne prendono anche troppe, finisce che lo stancano. Bisogna lasciarlo respirare. Lo ammazzano, pover'uomo, a furia di andare e venire da casa sua. Insomma, disse la duchessa Lacquet, che stava ritirandosi, avevo chiesto di consegnarmi il pacco con la fotografia che mi ha mandato il signor Swan. Signora duchessa, è così grande che non sapevo se sarebbe passato dalla porta. L'abbiamo lasciato nel vestibolo. La signora duchessa vuole che glielo porti? Ebbene no, avrebbero dovuto avvertirmi, ma visto che è così grande lo vedrò ora scendendo. Dimenticavo anche di dire alla signora duchessa che la signora contessa Molé ha lasciato stamattina un biglietto per la signora duchessa. Come? Stamattina? Disse la duchessa con aria contrariata, perché trovava che a una donna così giovane non fosse lecito lasciare biglietti di mattina. «Sì, signora duchessa, verso le 10. Mostratemelo dunque questo biglietto!» «In ogni caso, Rian, quando dite che Maria ha avuto un'idea bizzarra a sposare Gilbert», riprese il duca tornando al suo discorso originario, «siete voi che avete uno strano modo di scrivere la storia. Se qualcuno ha commesso una sciocchezza con quel matrimonio è stato Gilbert, proprio perché ha sposato una parente così stretta del re dei Belgi, il quale ha usurpato il nome di Brabante, che è nostro privilegio. In parole povere, noi siamo dello stesso sangue degli Assia e del ramo primogenito. È sempre stupido parlare di se stessi», aggiunse il signor di Guermantes rivolgendosi a me. «Ma è un fatto che quando siamo andati non solo a Darmstadt, ma anche a Kassel e in tutto l'elettorato d'Assia, i Langravi hanno sempre cortesemente ostentato la loro cura nel cederci il passo e il posto d'onore, come appartenenti al ramo primogenito». «Ma via, Bazin, adesso non mi darete ad intendere che una persona che aveva il grado di maggiore di tutti i reggimenti del suo paese, che volevano fidanzare al re di Svezia...» «Oh, Rian, questo è troppo davvero. Sembra quasi che ignoriate che il nonno del re di Svezia coltivava la terra a Pau quando noi, da 900 anni, occupavamo le posizioni più elevate in tutta Europa. Ciò non toglie che se per la strada si spargesse la voce «Guarda, ecco il re di Svezia», tutti per vederlo correrebbero fino in Place de la Concorde, mentre se si dice «Ecco il signor de Guermantes», nessuno sa chi sia. Bel ragionamento. E poi non riesco a capire, dal momento che il titolo di duca di Brabante è passato alla famiglia reale belga, come possiate pretendere che sia vostro? Il Lacquet era tornato con il biglietto da visita della contessa Molé, o meglio, con ciò che la contessa aveva lasciato come tale. Col pretesto di non avere biglietti con sé, aveva cavato di tasca una lettera che le avevano spedito e, tolto nel contenuto, aveva piegato un angolo della busta sulla quale era scritto «Contessa Molé». Poiché la busta corrispondeva al formato, piuttosto grande, della carta da lettere che andava di moda quell'anno, quel biglietto scritto a mano risultava di dimensioni quasi doppie rispetto a un normale biglietto da visita. «Ecco la cosiddetta semplicità di Madame Molé», fu l'ironico commento della duchessa. «Vuol farci credere che non aveva biglietti e mostrarci la sua originalità. Ma noi li conosciamo tutti, questi trucchetti, non è vero, caro Charles? Siamo troppo vecchi e anche un po' troppo originali a nostra volta per imparare lo spirito da una piccola signora che va in società da 4 anni appena. È incantevole, senz'altro, ma non mi sembra che occupi abbastanza spazio per pensare di poter sbalordire il mondo con la minima spesa di lasciare una busta come biglietto e di lasciarla alle 10 del mattino. La povera vecchia Befana le farà vedere che non la sa meno lunga di lei su queste faccenduole». Swan non poté impedirsi di ridere, prevedendo che la duchessa, la quale del resto era un po' gelosa del successo di Madame Bollé, avrebbe certo attinto allo spirito dei Guermantes qualche impertinente risposta al gesto della visitatrice. «Quanto al titolo di duca di Brabante, Orian, vi ho ripetuto 100 volte», riprese il duca. Ma la duchessa lo interruppe senza prestargli ascolto. «Cher tesoro, muoio dalla voglia di vedere quella fotografia». «Ah, extinctor draconis latrator Anubis», disse Swan. «Sì, è così bello quello che me ne avete detto, quel confronto con il San Giorgio di Venezia. Ma non capisco il perché di Anubis». «Che tipo è quello che è antenato di Babal?» chiese il signor di Garmant. «Voi vorreste dunque vedere la sua Babal?» rispose Madame de Garmant seccamente, per manifestare che lei per prima disprezzava questo gioco di parole. «Io vorrei vederle tutte», aggiunse. «Sentite, Charles, cominciamo a scendere mentre s'aspetta la carrozza», disse il duca. «Ci farete visita nel vestibolo, perché mia moglie non ci lascerà in pace finché non avrà visto la fotografia. Io, per la verità, non sono altrettanto impaziente», precisò con aria soddisfatta. «Sono un uomo tranquillo, io, ma lei, se non l'accontentiamo, ci farà morire».